L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parleremo di gas fracking, ovvero fratturazione idraulica. Si frattura la roccia usando fluidi saturi di sostanze chimiche, iniettandoli nel sottosuolo ad alta pressione per ottenere gas. Il fracking è un modo non convenzionale per estrarre gas da roccia porosa di origine argillosa, detta scisti in italiano e shale in inglese. I pori di questa roccia, per così dire, ospitano in prevalenza metano. Con tecniche tradizionali questo gas non può essere estratto, con il fracking invece sì. La trivella raggiunge una certa profondità di perforazione, quindi vengono sparati orizzontalmente rispetto al terreno i gas e l'alta pressione innesca una serie di microsismi, frantumando la roccia e lasciando sprigionare il gas. Esistono poi varianti per il petrolio, per la geotermia, per il metano intrappolato nel carbone, attenzione, perché accade anche in Italia. Cosa si spara sottoterra? Così si legge in un rapporto sul fracking presentato al Congresso degli Stati Uniti nel 2011. Naftalene, benzene, toluene, xilene, etilbenzene, piombo, diesel, formaldeide, acido solforico, tiourea, cloruro di benzina. Negli Stati Uniti i pozzi ormai sono migliaia, decine di migliaia aperti in pochi anni e garantiranno energia per un secolo, si pensa. In Europa sono assai meno, sia perché gli spazi geografici sono più ristretti, ma anche perché quelli normativi sono assai più stretti. Scriveva Marco Magrini su Sole 24 Ore di non molti giorni fa che secondo Schlumberger, il colosso dei servizi all'industria petrolifera, il costo di un pozzo in Polonia, non solo per la maggiore profondità, si aggira sugli 11 milioni di dollari, il triplo che negli Stati Uniti. Per di più, l'effettiva abbondanza di risorse è ancora incerta. In America ci sono gli incentivi fiscali, in Europa solo in Ungheria esistono. E infine, mentre di là dall'oceano la proprietà del gas è del proprietario della terra, che quindi può essere ben felice di monetizzare, da questo lato dell'Atlantico le risorse sono degli stati. Ma non è finita qui. L'Energy Act americano del 2005 autorizza di fatto il fracking, che invece è strettamente regolato in Inghilterra e in Polonia, è in regime di moratoria in Bulgaria, in Romania e nella Repubblica Ceca ed è bandito in Francia. Con decine di migliaia di pozzi attivi, nel Nord America il tema è dibattuto anche a colpi di film. Il primo fu Gasland nel 2010 e vinse il Sundance Festival. Regista Josh Fox, proprietario di un terreno su cui una compagnia voleva trivellare un pozzo e che invece di accettare l'offerta si imbarcò in un viaggio attraverso il paese per conoscere cosa succedeva laddove i pozzi erano già stati fatti. Un film contro il fracking con la denuncia dell'incredibile caso di una città della Pennsylvania in cui si può far prendere fuoco all'acqua potabile. Rispetto a chi ti ha preceduto, hai chiuso il triplo dei contratti. Come fai? Sono cresciuto in una grossa comunità. Di pochi mesi fa, un altro e più poderoso film, La Terra Promessa, con la regia di Gus Van Sant e con protagonista Matt Damon. Well, I'm a journalist and I wanted to find out if they were telling the truth. Tutto schierato sul lato opposto e quasi contemporaneo, The Frack Nation, video inchiesta del giornalista Felim McAleer. Le accuse reciproche ovviamente sono di disinformazione. Ma di chi ci si può affidare in questa vicenda? Ci vuole qualcuno con una visione mondiale, che abbia sotto mano tutti i casi, tutte le evidenze, che possa cercare di essere davvero super partes. Più in là dell'ONU non possiamo andare. Tra l'altro l'UNEP, il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite, ha presentato un rapporto molto recentemente, a novembre, che porta il titolo Gas Fracking, possiamo spremere le rocce in sicurezza? Pascal Peduzzi, all'UNEP, è il capo dell'unità Vulnerabilità e Cambiamenti del Pianeta che ha prodotto questo rapporto. È nostro compito tenere sotto controllo questioni ambientali non solo già presenti, ma anche emergenti, che possono avere rilevanza globale. E il tema del gas fracking, anche se per ora principalmente concentrato nel Nord America, comincia a riscuotere molto interesse in tutto il mondo. Ecco perché abbiamo cominciato a interessarcene in relazione alle possibili ricadute sull'ambiente. Quali erano le vostre preoccupazioni? Diverse. L'estrazione di petrolio o di gas ha comunque impatti considerevoli per l'ambiente, ma quello che è preoccupante nella fratturazione idraulica è che nel lungo periodo compromette l'uso del sottosuolo. che rilascia nel terreno e nell'acqua molti potenziali inquinanti, che rischiano di infiltrarsi anche nelle falde da cui preleviamo per il nostro consumo. Secondo diversi studi che abbiamo esaminato, va messa in discussione anche l'affermazione che l'estrazione di questi gas produce meno emissioni di gas serra di quella del carbone. Eravamo convinti del contrario ed è stata una sorpresa, ma abbiamo esaminato una cinquantina di recenti pubblicazioni di tutto il mondo che confermano emissioni notevoli e non solo di gas serra, ma anche di metano. Il metano è meno climalterante sul lungo periodo, ma nel breve periodo è più dannoso della CO2. Questo per il clima. Quali sono gli effetti invece sull'ambiente? Sul piano dell'inquinamento le considerazioni sono numerose. Il primo e più evidente è l'inquinamento visivo, quello del paesaggio, perché per poter scavare i pozzi si fa piazza pulita di tutto quello che c'è. Poi c'è quello acustico. Ma le minacce dirette per l'ambiente sono le infiltrazioni nel terreno e nell'acqua. Ed è accaduto spesso negli Stati Uniti. In 2 anni e mezzo, oltre 1200 casi sono stati portati in tribunale nello stato della Pennsylvania. Quindi, sì, possiamo dire che è già provato che sostanze chimiche tossiche iniettate nel sottosuolo possono raggiungere e contaminare le popolazioni della zona. L'abbiamo riscontrato particolarmente in Texas. E una volta che la terra, le acque sotterranee e addirittura l'acqua per il consumo umano sono contaminati, è molto, molto difficile tornare indietro. Diventa un serio problema di salute pubblica per un lungo periodo. A quel punto diventa impossibile un qualsiasi altro sfruttamento del sottosuolo. Se si volesse fare della geotermia, ad esempio, non si potrebbe, per colpa delle sostanze tossiche iniettate in precedenza. Negli Stati Uniti, tra l'altro, al momento non è obbligatorio per le compagnie rendere pubblico l'elenco delle sostanze utilizzate per il fracking. Ma con il passare degli anni anche un pozzo fatto a regola d'arte può diventare un pericolo se per qualsiasi motivo comincia a cedere la struttura stessa del pozzo. E perché allora si continua a scavare se molti dei pericoli sono ormai noti? Il mondo intero è a caccia di energia e questi gas ne promettono tanta. Già, ma i guadagni di oggi saranno la spesa per la sanità dei governi di domani. Per ora in Europa i governi sono stati cauti con le concessioni e non hanno spalancato le porte alle perforazioni. Ma certo, le pressioni delle compagnie sono tante. Ecco, un'altra questione fondamentale è che questi gas stanno sotto a terreni molto fertili e che quindi la loro estrazione entra in competizione con la produzione del cibo. Non si possono fare entrambe le cose, per i rischi di contaminazione di cui dicevo prima, ma anche perché si sfruttano quantità enormi di acqua per la fratturazione. Acqua che va trattata perché carica di contenuti chimici e che non può comunque più essere usata per l'agricoltura. Si fa il fracking in Italia? Si fa, ma non si dice, come molte altre cose purtroppo da noi. Se ne parlò molto dopo il terremoto dell'Emilia, una terra che fino ad allora non eravamo abituati a pensare come sismica. Vista la presenza di tanti giacimenti e tanti estrattori di gas naturale in Valpadana, però, si cominciò, dopo il terremoto, ad associare il sisma a possibili attività di fracking. Si pensava soprattutto a Rivara, nel territorio di San Felice del Panaro, dove la società ERG Rivara Storage intendeva avviare gli accertamenti tecnici per la realizzazione di un sito di stoccaggio, cui la regione Emilia-Romagna, un mese prima del terremoto, aveva però dato parere negativo, a dispetto del decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero dell'Ambiente, che autorizzava la società a procedere. La ERS, però, aveva dichiarato di voler continuare perché aveva già ricevuto una positiva valutazione di impatto ambientale dal Ministero. Il terremoto fermò tutto e la vicenda si trascina ora nei tribunali e forse mai ne uscirà. Ma la domanda è: c'è relazione tra terremoti e fracking? Pascal Peduzzi. Abbiamo trovato qualche situazione in cui la fratturazione idraulica ha provocato delle scosse, non dei forti terremoti. La questione principale resta quella dell'inquinamento. E se un paese vuole procedere con queste tecnologie, deve dotarsi di regole nuove, farle applicare e controllare adeguatamente. La seconda domanda chiave è: in Italia si fa il fracking o si sospetta solo? Si fa, ma in Toscana, non in Emilia. E da tempo. In proposito, in ottobre presentò un'interrogazione alla Commissione di Bruxelles la parlamentare europea Sonia Alfano, che chiese tra l'altro alla Commissione di invitare le autorità italiane a fornire un quadro chiaro e trasparente ai cittadini, organizzando momenti pubblici di incontro e di dibattito. E in effetti, troppo poco se ne sa. Questo primo sito italiano in cui si è autorizzato il fracking è a Ribolla, una frazione di 2100 abitanti del comune di Roccastrada, provincia di Grosseto, piena Maremma, altra area fertile del paese. L'autorizzazione è stata data alla britannica Independent Resources, che tra parentesi è la controllante della emiliana Ribara Gas Storage, che ora è diventata orfana della ERG e non si chiama più ERS, bensì RGR, ma è sempre quella. È dalle carte dell'azienda che si apprende che i test della fratturazione idraulica sono stati eseguiti lì nel 2010 e che i risultati sono stati molto soddisfacenti per l'azienda. Non stupisce del resto, Ribolla dagli anni 30 alla metà del Novecento era una delle più importanti zone minerarie d'Italia, tristemente nota per le ripetute fughe di gas metano dal carbone. L'ultima, che ne decretò la chiusura nel 1954, uccise 43 persone. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora per scriverci l'altro pianeta @radio24.it.